nello spazio senza fine, fermati un istante, solo un attimo, e ascolta i nostri cuori caduti in questo mondo. Siamo in tanti ad aspettare, donaci la pace ai nostri simili, pane fresco da mangiare. Proteggi i nostri sogni veri dalla vita quotidiana e salvali dall'odio e dal dolore. E a noi che siamo sempre soli nel buio della notte, occhi azzurri per vedere questo amore.